Dopo l'anno nefasto, il 2015, la perdita di Francesco Di Giacomo, la voce storica del banco, il chitarrista storico Rodolfo Maltese, e io che ci ho messa tutto per fare lo stesso, da invidiosa Maria Rosa, con bella emorragia cerebrale, insomma, davano tutti per spacciata la band, finito, fine dei giochi, chiuso il sipario. Invece no, perché il destino, in qualche modo, quando ti sottrae delle cose importanti, può capitare che ti dà con l'altra mano qualche cosa di altrettanto importante. A me è capitato, posso raccontarvi questo, da tutto questo è nata la trilogia. Ho scoperto il mio alter ego musicale, dopo tanti anni l'ho scoperto nel mio terzo figlio, Michelangelo, perché questo ragazzo veniva a farmi sentire, papà, senti sto tema, mi sembra bello, e immediatamente mi sembrava, stranamente, che l'avessi scritto da pochi minuti io in prima persona, e quindi mi veniva voglia di ampliarlo, di evolverlo. Insomma, ci siamo ritrovati a scrivere a quattro mani tutti e tre gli album della trilogia. E mi è tornata voglia di rincontrare la gente, di salire su un palco, di mettere su una formazione competitiva. E in questo momento il banco è veramente una gran bella band rock. Non è molto elegante che sia l'host a dire che il proprio vino è buono, però diciamo che sono un appassionato di musica che dice, a chi fosse interessato, che questa band che si chiama così oggi ha un batterista formidabile che unisce tecnica e visceralità e passione. Si chiama Andrea Bruni, è toscano, di Siena. È un bassista romano, Marco Capozzi, che si è fatto le ossa nella storia del rock progressive suonando a lungo con il balletto di bronzo di Gianni Leone, ed è un bassista che ha una voce sullo strumento che mi fa incantare ogni volta che suono con lui dal vivo, perché è un basso profondo, dove però non perdi mai, come spesso accade quando il basso è profondo, l'incipit della nota, l'attacco, per cui diventa tutto... No, si sente bim bim bim bim bim, nota per nota, chiaramente, e allo stesso tempo profondità. Poi la chitarra, sono 30 anni che sto nel banco ormai, Filippo Marcheggiani è entrato a 18 anni da ragazzino, è diventato un grandissimo chitarrista, sono felice per lui, perché veramente unisce competenza, musicalità, cultura musicale, tecnica, è una gioia suonarci insieme. Poi la nuova voce della band, tale Tony D'Alessio, è un ragazzo di Salerno, provincia di Salerno, costiera amalfitana, che ha una potenza vocale, cioè lui apre la bocca e ti prende il do di petto. Questo di per sé non vorrebbe dire nulla, perché è un essere virtuoso, tra l'altro un talento che ti ha dato la natura, per cui non sei neanche meritorio. Lo utilizza questo potente strumento per colorare, mettere mano a tantissimi timbri, espressività interpretativa. Il banco aveva bisogno di una capacità di questo tipo, perché quando canti un testo del banco devi scegliere la, come si dice in teatro, la drammaturgia interpretativa, cioè leggere bene le parole, capire il significato profondo, quello concettuale e quello poetico, e poi scegliere con quale partecipazione vocale esprimerlo. Se il testo è già molto forte, è duro come l'acciaio, è drammatico, perché ci metti un'interpretazione altrettanto tragica? Tragico più drammatico diventa retorico. Allora no, più leggerezza, perché le parole di per sé già sono pugni in faccia. Sì, è inutile aggiungere quando non serve proprio, anzi può essere dannoso. Esattamente. E devo dire che Tony veramente è diventato un grande in questo senso. Riesce a dare colori, interpretazioni, sfumature ai testi che vivono, grazie alla sua musica, molta profondità. Poi ci sono le tastiere mie e c'è una new entry, un secondo tastierista, Nocenzi, perché i fan mi hanno dato out. Vogliamo di nuovo due Nocenzi alle tastiere. Mm-hmm. Siccome Gianni, mio fratello, è stanco, non se la sente di ripartire con la quinta innestata e andare a tutto gas. Michelangelo, con il quale ho scritto tutte le composizioni dei tre album, è stato acclamato, vogliamo che si prendesse sul palco Michelangelo. Alla fine Michelangelo ha debuttato anche come secondo tastierista sul palco. E ricreando questo binomio Nocenzi alle tastiere, che tanto ama lo zoccolo duro, che sono spesso persone alle quali dobbiamo tutto noi, ovviamente, 50 anni di carriera, 5.500 concerti,